come un sogno favoloso. Sei entrata dentro me e la sera non riuscivo che pensare a te, al chiarore dei tuoi occhi. Vorrei tu fossi mia e cancellare la malinconia. Vorrei tu fossi mia e stare insieme a te e vivere di nuovo come due anime senza il loro poi, come una luce che ti cercherò per sempre, lo sai, e ti troverò se tu lo vorrai. Io ti troverò. Vorrei tu fossi mia cancellare la malinconia. Vorrei tu fossi mia e stare insieme a te.